Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ho fatto un po' di tutto nella mia vita. Dall'imbianchino al pulitore di cisterne, dal vendemmiatore allo scaricatore di camion. A 18 anni poi, dopo non essere stato assunto a Merano come lavapiatti con viaggio pagato, sono andato a fare il facchino a Selva di Val Gardena. Mi chiamo Matteo Tranquillini, abito a Roveretto. Ho 67 anni e sono pensionato, badante, perché faccio la badante per mia madre. Un annuncio, diciamo, semplicemente di forma, ma non solo. Ieri pomeriggio, grazie alla presenza in studio, in diretta, di Giovanni Soldini, voi siete qui, si è guadagnato la prestigiosissima home page del sito di Radio 24. È una cosa, guardate, che forse voi non vi rendete conto, voi di lì dalle casse, non vi rendete conto di cosa voglia dire con il nuovo sito della radio, il nuovo formato, il nuovo stile e la mole di lavoro che c'è attorno a questo sito. Boom, pronti via, andare in prima pagina, dove di solito, ho detto prima pagina, quando in realtà si dice home page, ma dove di solito nell'home page ci sono notizie di maggiore rilevanza legato alla situazione politica, alla cronaca, all'attualità, all'approfondimento. E invece no, grazie a Giovanni Soldini, che tra l'altro abbiamo scoperto un'altra cosa, che è venuto direttamente qui, non proprio da San Francisco, però è tornato in Italia ed è venuto qui come prima uscita sui media. Abbiamo scoperto che sabato sera sarà da Fazio. E anche questa è una cosa che uno lo dice così, ma se noi fossimo giornalisti, parlo a voi ragazzi, a Bonini e a Corleoni, noi a questo punto saremmo qui a stappare delle bottiglie, capito? E invece no. E invece no, perché abbiamo sto maledetto basso profilo. Chi ce l'ha insegnato a noi il basso profilo, ragazzi? Chi ce l'ha insegnato? 349-238-6666. La puntata di Giovanni Soldini comunque è stata una magnifica puntata, grazie alla sua presenza e grazie a quello che lui ci ha mandato. Vi consiglio di scaricarvela sul podcast se non l'avete ascoltata in diretta. Per arrivare ai podcast ci sono diversi accessi: uno è dal sito nella sezione podcast, un altro è abbonandovi ad iTunes direttamente, gratuitamente, cliccando sul profilo podcast iTunes di Voi Siete Qui. Ma sul sito di Radio24 c'è anche un video che Tiziano ha girato direttamente dall'interno dello studio, che riprende tutta quanta l'intervista di ieri. Non so Giovanni Soldini quanti lavori abbia fatto nella sua vita, ma Matteo, il protagonista della puntata di oggi, ne ha fatto una marea. Voi siete qui, @radio24.it, se avete voglia di partecipare raccontando, facendo proprio un elenco di tutti i lavori che avete fatto nella vostra vita, oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, è Voi Siete Qui Radio 24, dove ci sono lunghissimi elenchi di lavori. Vincenzo, macellaio e metalmeccanico in fonderia. Giulia, donna delle pulizie, postino, addetta in fotocopisteria, assistente universitaria, libera professionista, impiegata. Marco, cartongessista. Perché il cartongessista è una specializzazione, se è vero. Cioè non è che uno che fa il muratore fa anche il cartongesso, è diverso. Cioè c'è del cartone con sopra del gesso. Paolino, scusa, se si chiama cartongesso una ragione ci sarà. Ci saranno delle lastre di cartone. Non è cartone? È cartone insieme al gesso. 349-238-6666. Come è fatto il cartongesso? Anche tu, dove sei? Marco, tu che l'hai fatto? Cartongessista, magazziniere e da una decina d'anni responsabile autista di una multinazionale dei trasporti olandese. Mi fa un... Ok, Giuseppe, cameriere da... Devo leggerli prima i messaggi, prima di leggerli tutti. Giuseppe, io ho fatto diversi lavori, cameriere d'albergo a Milano Marittima dopo il liceo per 3 stagioni estive, raccoglitore di uva sempre d'estate e quasi 20 anni di lavori notturni nel fine settimana, tutto bellissimo e indimenticabile. Perché quello che ha fatto Matteo nella sua storia, e che poi fanno molti, quando si dice ho fatto di tutto nella vita, non è che uno perché per anni ha fatto diversi lavori, di solito subentra quello che viene chiamato la stagionalità, cioè il lavoro stagionale, che uno per una stagione va, che so io, a Sozzago, vicino a casa mia, si andavano a raccogliere le mele a stagione, oppure si va a fare i bagnini a stagione, o i camerieri, o anche i tecnici radiofonici, se serve. No, beh, con i servizi in estate si fanno lavori stagionali, i fonici fanno lavori legati alla concertistica e ai tour estivi. 349-238-6666, tutti i lavori che avete fatto, come lo avete fatto, perché e soprattutto a cosa vi è servito? Cioè, serve veramente fare tanti lavori oppure è meglio specializzarsi in uno e farlo fino alla fine? magari dopo lo chiediamo. Dopo abbiamo un ospite piuttosto prestigioso. Ho usato la parola prestigiosa due volte oggi, una per il sito e l'altra per l'ospite. Più tardi avremo come ospite al telefono, a voi siete qui, il professor Emilio Raineri, che è ordinario di sociologia del lavoro all'Università di Milano Bicocca. E a lui vorrei proprio chiedere diverse cose legate al lavoro, legato a come è cambiato il lavoro in questi anni. E tutto partendo dalla storia di Matteo. Perché Matteo in realtà ha, mi diceva prima, 67 anni, se non ricordo male, quasi 70, insomma. Comunque ha l'età di mio padre, quindi non è una persona anziana, è una persona che è ancora a pieno nella vita sociale di questo paese, anche se è in pensione. Ma la sua storia, legata a quando faceva il facchino in Val Gardena, sembra una storia del secolo scorso. E quindi davvero vorrei capire come è cambiato. Sembra cambiato alla velocità della luce il lavoro in questi ultimi anni, e vorrei capire se invece gli anni prima è sempre stato così oppure no. 349-238-6666, un semplice elenco di tutti i lavori che avete fatto nella vostra vita, da quando avete cominciato, da quando siete partiti come lavoratori ad oggi. 349-238-6666. Questa qui è la storia di Matteo. Per noi ragazzi al paese, l'estate fino ai 14 anni era una pacchia. Si viveva praticamente in strada o in piscina, con un panino per tutto il giorno. Poi, un po' più grandi, si cominciava a lavorare. Io ho fatto un po' di tutto, dall'imbianchino al pulitore di cisterne, dal vendemmiatore allo scaricatore di camion. A 18 anni poi, dopo non essere stato assunto a Merano come lavapiatti con viaggio pagato, sono andato a fare il facchino ai piani, a Selva di Val Gardena. L'ho fatto per un'estate, in un albergo bellissimo, insomma. Però era difficile, era lungo, era 20 ore, 20 ore al giorno di lavoro, insomma. Già un amico mio faceva il cameriere e siccome l'estate io dovevo guadagnare soldi per andare a studiare a Roma, e sono andato a fare questo. Albergo Oswald si chiamava. Era un albergo di enorme categoria, anche se antico, buio e freddo. In quella zona si parlava originariamente una lingua incomprensibile, il ladino, e qualcuno ancora comunicava in quel modo. I primi giorni mi sembrava di essere in terra straniera, poi iniziai a comprendere anche alcune parole di quella lingua antica. Il mio compito consisteva nell'aspettare i clienti, portare valigie e bagagli in camera, pulire corridoi e tutto quello che si vedeva nel mondo, anche le scarpe lasciate fuori dalle stanze. Quel che si può osservare in un albergo come quello è così assurdo che a raccontarla si viene presi per matti o contaballe. Tutti noi eravamo sempre pronti, falda tirolese verde in testa, ci si faceva vedere dai clienti che non lesinavano mance. Mi ricordo che di stipendio estivo io presi 47.000 lire e di mance oltre 50. Noi lavoratori si mangiava tutti assieme in cucina prima dei siori. Le tavolate erano allegre e piene di gente. Ci si prendeva in giro e non si pensava al lavoro. Non si mangiava molto bene e quindi ci si arrangiava con gli avanzi delle colazioni. Quello che i ricchi non mangiavano era ancora buono per noi. Lo raccoglievamo nei vassoi e poi ce lo portavamo in camera. Marmellate e dolci, tutto quello che riportavamo in cucina. Ho conosciuto tanta gente perché io ho preso di più di mance che di stipendio, perché noi prendevamo le valigie all'inizio, pulivamo le scarpe della gente, pulivamo i corridoi e anche alla notte dovevamo fare l'apertura. Figure che quell'amico mio che era in camera con me l'ha licenziato perché aveva staccato il campanello perché non voleva svegliarsi. Si dormiva nel sottoscala su delle brandine improvvisate e la notte bisognava aprire i ritardatari aiutando il portiere. Alla fine della stagione, la terribile e giusta governante mi fece una bella lettera di raccomandazione. Mi permetteva di andare dappertutto. L'anno dopo, però, ho provato il lavoro stagionale alle poste di Moena, cartoline e pacchi, e ho trovato quasi una fidanzata. Eppure, ancora oggi, quando passo da Selva di Val Gardena, mi viene ancora la nostalgia e mi torna in mente quel dollaro datomi di mancia da un'americana. Bye. L'incipit del racconto di Matteo, l'autore della storia di oggi, è un incipit piuttosto comune nelle biografie di moltissime persone che hanno lavorato parecchio. E suona così: nella mia vita ho fatto un po' di tutto. È una storia comune soprattutto a chi è nato e cresciuto con pochi soldi in tasca. È stato costretto a costruire la propria vita moneta dopo moneta. Io sono molto più fortunato e lavoretti non li ho dovuti fare per sopravvivere, ma al massimo per potermi permettere quelle cose che desideravo da ragazzo, ma che i miei genitori non erano disposti a sponsorizzare. Leggendo la storia di Matteo ho pensato che oggi, probabilmente, il lavoro più simile, anche se molto meno faticoso, a quello che era il facchino qualche tempo fa, è un po' l'animatore di villaggio. Perché è vero che non porti i bagagli e non mangi i resti della colazione, ma è un mestiere che ti obbliga a stare sempre in mezzo ai clienti, cercando di soddisfare qualsiasi loro desiderio. Oggi non lo so più, ma fino a qualche anno fa c'era ancora un sacco di richiesta per fare questo mestiere e non era nemmeno necessario che tu sapessi fare qualcosa in particolare. Bastava essere, mi ricordo così chiedevano, spigliati e socievoli, e un posto per te c'era sempre. Come è successo a molti ragazzi, anche io ci ho provato a fare quel lavoro, che visto da lontano sembrava un po' il lavoro della vita. Estate al mare senza pagare e pagati, anche se è una miseria. Un sacco di persone intorno a te e soprattutto la divisa dello staff, che sembrava regalarti un'autorevolezza che a 19 anni è difficile che tu abbia. Avevo fatto un colloquio in cui mi avevano chiesto quali erano le mie abilità e io, che stavo da poco facendo la scuola di teatro, dissi che sapevo parlare in pubblico. La mia mansione, barrata da una X sul modulo compilato dal responsabile, diceva animatore di contatto. Mi dissero di tenermi libero per i mesi di luglio e di agosto. Mi ricordo quel giorno me ne andai via felice da quel colloquio. Felice di aver acciuffato quel lavoro così ambito e di farmi la mia prima vera esperienza lontano da casa guadagnando dei soldi. Non sapevo ancora, e lo scoprii una volta arrivato, che animatore di contatto significava tutto e niente, dove per niente si intendeva che non era necessario che tu sapessi fare nulla. E per tutto, invece, voleva dire che era possibile chiederti di fare tutto quello che serviva. La cosa più richiesta, ovviamente, era divertire gli ospiti, dove per divertire significava coinvolgerli nei vari giochi che riempivano la giornata. Per cui, dal risveglio muscolare al gioco da spiaggia prima di pranzo, il gioco caffè dopo pranzo, il torneo sportivo al pomeriggio, il gioco aperitivo prima di cena, lo spettacolino dopo cena e poi tutto in discoteca. E a volte la notte si provava in teatro lo spettacolo del giorno dopo. E di tutto questo, la cosa più fastidiosa non era la fatica per fare qualcosa che comunque assomigliava moltissimo a un gioco, impegnativo ma un gioco. No, la cosa più fastidiosa era l'obbligo a divertire che era insito nella mentalità dell'organizzazione. Cioè era come se i clienti che non accettavano il tuo invito a partecipare a un gioco non fossero liberi di farlo, perché l'indicazione per gli animatori era convincili a divertirsi, sempre. Non ho fatto un'intera stagione come ha fatto Matteo, io in quel villaggio siciliano sono restato 4 giorni, poi ho ripreso un treno e sono tornato a casa. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Ho fatto il lavapiatti, il cuoco, il facchino, l'autista, fino a 4 anni fa il manovratore pale meccaniche. Ora faccio il disoccupato a tempo pieno, spero ancora non per troppo tempo. 349-238-6666. Oggi parliamo di tutti i lavori che avete fatto. Lo facciamo perché è arrivato un racconto di Matteo che raccontava come una 50ina d'anni fa lui si ritrovò a fare il facchino oltre a una serie di lavori che aveva fatto e veramente sembra un secolo fa. Ringrazio quello che mi ha scritto che un secolo fa era diciamo era 1900 ed era effettivamente un secolo fa, però per secolo scorso si intende sempre 1800. Nei primi 20 anni del secolo, il secolo scorso è un secolo e mezzo prima più o meno. Invece ringrazio anche Marco che mi spiega cos'è il cartongesso. sono pannelli di gesso, quindi non sono pannelli di cartone ricoperti di gesso, ma sono pannelli di gesso coperti di cartone. Paolino, ho capito, sembra la stessa roba. Si usano sia come pareti divisorie che come insonorizzanti. Il problema dell'insonorizzante è che se poi, tipo ad esempio, ti bucano il muro dall'altra parte con un trapano, tu non te ne accorgi fino a che poi non succede qualcos'altro. In ordine temporale ho fatto l'elettricista, il progettista di impianti, cameriere, barista, designer pubblicista, editore di settimanale, giornalista, oggi artigiano edile, anche se sicuramente non sarà l'ultimo. Nicola, 36 anni. Ciao, sono Massimiliano, grafico militare, no, sarà grafico, virgola, militare, virgola, operaio, tecnico hardware per una SPA, chimico, ora edicolante. Ho fatto il cameriere in Italia all'estero, il corriere, l'elettricista, il carabiniere, l'impiegato, ora il venditore di prodotti siderurgici. Ci sono una marea di messaggi. Mi chiamo Anna da Frosinone, ho fatto la sarta, la cosiddetta dama di compagnia per un'anziana, le pulizie, la badante, la lavapiatti in un ristorante, commessa in un negozio e la mamma. Baci, 349-238-6666, tutti i lavori della vostra vita. Matteo, anni fa, fece il facchino. Pronto Matteo? Pronto, ciao. Come stai? Molto bene. Dove ti trovi adesso, Matteo? A Rovereto. Dove, sei a casa, sei a casa, dove abiti. E dove mi dicevi, in pratica assisti la tua mamma? Sì, sì, sì, sì. Tu... Faccio la badante. Il badante, direi. Il badante, dai, la badante è più bella perché sono tutte donne. Sono tutte donne. Tu sei in pensione, però? Sì, sì, sì. Sì, da quanto? Da tanti anni. Senti? Da tanti anni sono in pensione, però ho sempre fatto quei lavori lì. Cosa è successo da quegli anni lì fino ad oggi? Dopo aver fatto il facchino sei andato a studiare a Roma, che lavoro hai fatto? Ho fatto l'insegnante di educazione fisica. Quindi hai fatto l'ISEF? Ho fatto l'ISEF a Roma e sono stato via 3 anni, per quello che io dovevo guadagnare un po' di soldi per andare a Roma a studiare. Ma a Roma perché l'ISEF era solo a Roma? Perché l'unica statale era a Roma. Io volevo fare, era la più rinomata, insomma, a quei tempi. Quella di Roma. Poi hai trovato subito lavoro? Sì, sì, sì. Sì. Senti, ma toglimi una curiosità, scusami Matteo, ma il professore di educazione fisica, sì, che dagli studenti è apprezzatissimo, ovviamente, sì, perché finalmente esci dalla classe, sì, ma sì, all'interno del consiglio scolastico... Ecco, proprio qua volevamo arrivare. Cioè, gli altri professori, com'è gli il altri rapporto? I professori no, ti sopportano, insomma, quasi. Nel senso che pensa che tu non faccia niente e solo per divertire i ragazzi. E glieli rimandi in classe sudati, perché poi, sì, anche, perché poi non ci si fa mai la doccia a scuola, perlomeno. No, noi ultimamente avevamo anche fatto fare le docce, insomma. Però quando abbinavamo le 2 ore, no? Perché io ho insegnato ultimamente a Liti e lì avevamo fatto anche le docce. Però era un disguido per i ragazzi, perché le mettevano, per dire, le mie ore, le mettevano sempre all'inizio e alla fine delle lezioni, no? Sempre e così. O il sabato, il pomeriggio, io avevo tutti i pomeriggi, per quasi sempre i pomeriggi. Io mi ricordo che avevo un sabato mattina in cui avevo 3 ore in terza liceo. Dalle 8 alle 11 avevo 1 ora di fisica e 2 ore di educazione fisica. Praticamente il sabato era come se non ci fosse. Sì. E in realtà, quando invece avevamo le 2 ore attaccate, arrivavamo in classe tutti... Scusi, però, ma che... abbiamo fatto 2 ore, abbiamo fatto la campestre, tutti sudati, è orribili. E da noi, all'Antonelli, non c'erano le docce, o quantomeno non le facevamo. Veniamo a noi invece, Matteo, torniamo a quel 1900, che anni erano? 66. 66. Tu fai il facchino, quanti anni hai? Io ne ho 66. No, scusami, quanti anni avevi? 18, quando... 19 anni. 19 anni. E tu hai dei bei ricordi di quel periodo? Ho dei ricordi perché fra noi come operai sì, però come lavoro era molto stressante, molto lungo, tante ore. Io dormivo sotto la scala, non si dava da mangiare praticamente niente e non si andava mai in giro, si era sempre lì, capisci? Cioè era 24 ore al giorno fisso lì? Praticamente, oltre anche alla notte, noi ci svegliavamo perché dovevamo sostituire il portiere di notte quando dopo una certa ora andava via e c'era il campanello che chiamava noi. Ma è stato il lavoro più faticoso che hai fatto quello? No, perché quello lì di scaricare o pulire le cisterne della grappa era un po' più difficile. Insomma. Le cisterne della grappa? Sì, perché le grappa bisogna tirare su le graspe, come si dice. Insomma. Le, scusami? Pulire le cisterne. Non... quello è difficile, è pericoloso anche. Beh, l'ho fatto tanto, però è un po' pericoloso. Ma devi entrare all'interno della cisterna? Devi entrare dentro le cisterne, quelle che avevano anche da noi, e dovevi pulirle, buttare fuori le vecchie scorie, insomma. Ah, quindi immagino, perché insomma, so che le cisterne non è proprio, sì, appunto, non è proprio una roba semplice. Era grande, avevano dentro la lanterna e che doveva controllare la luce, che quando si spegneva c'era pericolo, insomma. Senti, invece il dollaro di quella americana. Quello, beh, c'era ancora qua sulla tavola. Tu ti ricordi perché te lo diede? Ricordo vagamente, una bella ragazza, ragazzi. Ragazzi, sì, davvero, sì, sì. Era proprio americana in tutti i sensi. Sì, sì, no, lì arrivavano anche da Oxford e Cambridge perché aveva i contatti e il Pitchider con l'Inghilterra, insomma, i studenti, no? Però quella lì era americana. Sì, ma invece questo albergo c'è ancora, questo Oswald? Questo albergo, dunque, dopo di noi, che siamo stati su noi, è stato chiuso un po', l'hanno riaperto un certo periodo, dopo l'hanno abbattuto tutto giù, e adesso ho cercato per questa questione della nostra storia, insomma, sono andato a vedere, l'hanno fatto tutto nuovo. Ah, quindi però esiste ancora. Quello antico, se si va a vedere lì, selva, quello antico era bello. E poi ti saluto, Matteo, mi dici, sì, non vorrei aprire una ferita, cosa intendevi dire quando dicevi che l'anno dopo avevi quasi trovato una fidanzata alle poste di Moena? Perché, è vero, me lo ricordo anche a mia madre, e lì a Moena io ero lì, per dirti, a fare il postino delle poste, si guadagnava di più, però si spendeva, io vivevo in una pensione, c'era anche questa ragazza. Ah, però è finita in niente, insomma. No. Va bene. Matteo, so che tua mamma è nell'altra stanza che ti ascolta, quindi la saluto io e salutala anche tu. Grazie. Grazie, gentilissimo. Tu gentilissimo. Ciao Matteo, a presto. Ciao. Ciao, grazie. Voi siete qui. Se non siete davanti a un computer, dovete correre a un computer e andare a vedere la foto di Matteo sulla nostra pagina. Voi siete qui, radio24.it. È una foto eccezionale, è una foto dell'epoca ed è probabilmente scattata proprio a Selva di Val Gardena, con il massiccio di non so che cosa alle spalle. Ci sono delle montagne comunque innevate. Matteo è bruciato dal sole, con i capelli leccati all'indietro e una camicia che non capisco, deve essere una divisa, perché è una camicia col collo alto ma senza i bottoni davanti, quindi deve avere dei bottoni laterali, probabilmente sulle spalle, dei pantaloni di lana, immagino. E secondo me Matteo ci mente, non ha 67 anni, secondo me ne ha 130 e questa foto arriva diretta dal 1850. Facchino, sostantivo maschile. Porta bagagli nelle stazioni ferroviarie o altri mezzi di trasporto. Granchio marino dei dromidi, Dromia vulgaris, così chiamato perché è solito portarsi sul dorso con le zampe posteriori ascidie e spugne. Sì, beh, ma allora, tra dromidi e dromidi, il dorso, che mi fa schifo dirlo che è così, ascidie, cosa sono le ascidie? Così chiamato perché è solito portarsi sul dorso con le zampe posteriori ascidie e spugne, allo scopo di mimetizzarsi. Etimo, forse dall'arabo, secondo altri, dal francese, Faquin. Data, secolo XIV. Chissà quanti lavori ha fatto Alessandra De Luca prima di fare la speaker, ma soprattutto quante radio vi danno la possibilità, quanti programmi vi danno la possibilità di sentire l'anima dello speaker, di cui di solito conoscete solo la parte più patinata, la parte più bella, quella che probabilmente nasconde delle sofferenze, nasconde un'umanità, quella dello speaker che altrimenti non conoscereste mai. Solo qui, a voi siete qui. 349-238-6666, si parla di mestieri, tutti i lavori della vostra vita, grafica pubblicitaria, scrive Arduina, arredatrice, cameriera, lavapiatti, postina pubblicitaria. Cosa vuol dire postina pubblicitaria? Ah, quella che mette la pubblicità. Sottocuoca, pulizia uffici, decoratrice edile, disegnatrice edile, operaia, commessa, consulente marketing, urbano, telefonista, insegnante, cameriera ai piani. 349-238-6666, ancora, ho fatto il geometra per 16 anni in varie realtà, dal 2004 un'impresa edile artigiana con mio padre. Oggi, 28 febbraio, chiudiamo la partita IVA e da domani sarò disoccupato, senza sussidio, in cerca di lavoro. Alessio, in bocca al lupo. Guarda, dovresti fare la scelta di Mauro, che dice: stabilimento balneare Ostia, tutto fare, poi ho conosciuto la figlia del principale. Vuoi sapere com'è andato il gran finale? Guarda Mauro, lo posso immaginare. 349-238-6666. Vorrei che l'unica chiave per trovare lavoro non fosse quella scelta da Mauro, e quindi per capire se esiste una chiave per trovare lavoro, ma soprattutto per capire com'è cambiato il mondo del lavoro, abbiamo chiamato, ed è in diretta con noi, il professore ordinario di sociologia del lavoro dell'Università Bicocca di Milano, il professor Emilio Reineri. Professor Reineri, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui innanzitutto. Prego. Come sta? Io abbastanza abbastanza bene. Dove si, cosa stava facendo in un pomeriggio qualunque di fine febbraio? Valutando i processi di ricerca della VQR, la valutazione di ricerca fatta dall'Hamburg. Ammetto che se lei mi avesse detto stavo mangiando una caramella ci sarei rimasto male, professore. Quindi, no, dopo un lavoro noioso, ma valutare la ricerca è importante. La storia di oggi, professore, parlava di questo signore Matteo che ha 67 anni, adesso in pensione, e da ragazzo faceva il facchino per tirare su dei soldi e andare a studiare, e poi divenne professore di educazione fisica, che è una storia abbastanza comune, no? Soprattutto nel nostro paese si fanno tanti lavori da ragazzi, o dovunque, lei lo saprà meglio di me, si fanno tanti lavori da ragazzi per guadagnarsi un po' di soldi, studiare e poi andare a lavorare. È ancora così? Come è cambiato oggi il lavoro rispetto a 50 anni? Questo è un po' il passato, devo dire, adesso si fa un po' meno, devo dire, la cosa, devo dire, molto differenziata, si fa meno nelle città e si fanno più prima nei lavoretti, e se consentono poi di agganciare dei lavori migliori, a volte sì e a volte no, è molto difficile dirlo. Nel centro-nord è un po' più facile, nel sud è un po' più difficile. Ma quindi, diciamo, l'ideale adesso quale sarebbe? Sarebbe differenziare molto o specializzarsi, puntare una cosa e andarci dritti? Il consiglio che io do normalmente ai miei studenti è di fare quello in cui credono di saperlo fare, quello che piace fare, perché questo, se non altro, dà un qualcosa in più. Rassegnarsi a fare delle scelte strumentali a volte si può rivelare controproducente, perché si imbocca un percorso magari aspirando a delle cose e poi non lo si fa bene perché non ci si crede, non si è appassionata a quel tipo di lavoro. Ecco, professore, proprio a questo proposito, visto che lei ha a che fare, no, come tutti i professori, con ragazzi che stanno studiando per fare qualcosa che è più o meno legato a quello che hanno studiato, questo ancora non si sa, che cosa si trova davanti oggi un ragazzo che, si affaccia sul mondo del lavoro? No, si trova da fronte in una situazione molto difficile. Oggettivamente l'ingresso sul mercato del lavoro in Italia è particolarmente difficile, e devo dire onestamente, pur insegnando, che i titoli di studio non danno un grande vantaggio. Un piccolo vantaggio sì, però non è molto grande. In altri paesi è molto più grande. Però certo, quello di tentare le cose che piacciono è tanto rischioso comunque, è difficile comunque, e a questo punto tanto meglio fare quelle cose cui si sente portati, perché se non altro si sul piano personale si traggono qualche vantaggio. E da questo punto di vista, soddisfazione personale. Certo, visto appunto che lei dice una cosa sacrosanta, no? Cioè, cercate di fare quello che vi piace, almeno riuscite a farlo volentieri e forse otterrete qualcosa. Ma da questo punto di vista, forse anche dall'altra parte se ne rendono conto, cioè i datori di lavoro si rendono conto anche di questo. Questa è una sensazione che chi seleziona si rende conto di questo. Ma da questo punto di vista, se lei ne ha la percezione, come sono cambiati i genitori? Perché questo non è così facile che un genitore abbia l'apertura per dire guarda, fai quello che ti piace, non importa. Io ho 37 anni, mi sono laureato nel, non mi ricordo, 96, e comunque l'idea era guarda, se fai economia, commercio e ingegneria un lavoro lo trovi. Com'è adesso? Beh, questo c'è ancora, devo dire. Sì, devo dire che non, solo che a parte ingegneria, nel commercio è già più difficile, l'ingegneria forse è l'unico settore in cui certamente si trova lavoro adeguato, corrispondente. I genitori certamente tentano di fare suggerimenti più strumentali, su questo non c'è ombra di dubbio. Che li vincolino poi gli studenti a questo, devo dire che forse i giovani resistono un po' da questo punto di vista, e forse anche un bene, perché un cattivo ingegnere fatto a forza produce dei disastri poi in prospettiva. Certo, prima diceva, e lo diceva appunto lei che è un docente universitario, che l'università non dà questo grande vantaggio. Qual è allora il vero valore per una persona che cerca un lavoro? Non so, l'intelligenza, una particolare intelligenza, una scaltrezza particolare? Che non dà un grande vantaggio comparativo a chi si ferma prima. Un po' di vantaggio c'è, il lavoro, chi si laurea trova il lavoro prima di chi si ferma al diploma, chi si laurea ha una prospettiva maggiore in futuro. Però certamente se uno fa i confronti internazionali il vantaggio è più piccolo. Conta molto, devo dire, alcune cose trasversali. Sapere l'inglese ormai è diventato fondamentale, e quelle si chiamano le competenze trasversali. lavorare bene col computer è una cosa assolutamente indispensabile, saper maneggiare dati, informazioni, cercarle, essere molto curioso è una cosa importante. Ok, professore, poi purtroppo la devo salutare, lei consiglia ai suoi studenti o a un giovane che glielo chiede di andare all'estero? Ahimè sì, devo dire sì, perché con la speranza che possano tornare, non è un'impresa facile, molti studenti bravi emigrano, devo dire, e all'estero sono molto felici di prendere i nostri bravi studenti, purtroppo, e questo è un nostro problema che dovremo affrontare prima o poi. Ringrazio il professor Emilio Raineri, ordinario di sociologia del lavoro all'Università Bicocca di Milano. Buonasera. Professore, grazie ancora, arrivederci, a presto. 349-238-6666, chiudiamo con il messaggio di Mauro, quello che lavorava a Ostia e la figlia del principale si era innamorata di lui, il principale dei bagni, dice: la figlia era bruttissima e dopo un mese mi chiese un bacio, non ce l'ho fatta, sono tornato al mio lavoro. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina, grazie soprattutto a Matteo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.